1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ebbene sì, siamo qua alle 7:19 minuti, pronti a leggere i giornali. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Allora, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo e avremo ospite Gianni Fattimo, europarlamentare, alle 8:15, perché è colui che sulla TAV ha avuto qualche problema. È stato anche convocato ieri in procura perché è andato a trovare alcuni no-TAV militanti in carcere. Anche lui in qualche modo appoggia le tesi di Henry De Luca, cioè va sabotata questa opera. E ci sarà con noi anche quell'imprenditore di cui ieri raccontavamo, imprenditore Giuseppe Benente, che ha detto: per i tanti attentati ai miei cantieri ho deciso di non lavorare più alla TAV e di andare probabilmente all'estero. Insomma, ma è davvero questo il modo di affrontare un'opera che, indipendentemente dal fatto che si possa considerare strategica o no, indipendentemente dal fatto che uno possa essere favorevole o no alla realizzazione di quest'opera, però davvero risulta incredibile che ci siano queste posizioni così radicali. Ne parleremo alle 8:15, ora andiamo a scoprire cosa ci presentano i quotidiani che trovate in edicola. Questo martedì 3 settembre, intanto vediamo le aperture. Il Sole 24 Ore apre su imprese e sindacati, ora la svolta, il cosiddetto patto di Genova tra imprese e sindacati. Così anche il Corriere della Sera: subito meno tasse sul lavoro, patto imprese e sindacati. Il Repubblica invece lancia un allarme: taglio IMU, meno soldi per il lavoro. Sono stati ridotti i fondi destinati all'occupazione per la lotta all'evasione fiscale. Anche per la Stampa: crescita, appello di sindacati e Confindustria. Mentre il Messaggero: tagli di spesa per 10 miliardi, caccia le risorse per la manovra. Per l'Unità: il patto tra impresa e lavoro. Quindi vedete che questa notizia sta in apertura un po' ovunque. C'è chi apre invece con la Siria come Avvenire, la voce della pace. Tra l'altro di Siria parleremo proprio in apertura. Mentre la telenovela Berlusconi per il Giornale: le nuove prove, ecco le carte ignorate che scagionano Berlusconi. Il processo è già finito, ma insomma, ecco queste le carte. Il Fatto Quotidiano invece: Berlusconi pensa al metodo Previti, le tentano tutte per rinviare. Libero apre su sindaci sanguisughe, così governa la sinistra. Pisapia a Milano alza al massimo l'addizionale IRPEF e la estende a tutti i redditi, e non è il solo, quindi sempre tasse in primo piano. Mentre per il Manifesto, la scelta della Fiat di reintrodurre i rappresentanti sindacali FIOM dopo una sentenza della Consulta, e il titolo con la faccia di Marchionne è retromarcia in primo piano del Manifesto. Ma come dire, voglio proprio partire dall'attualità internazionale che incombe sempre più. Abbiamo sentito anche Edward Luttwak con noi alle 6:30 usare questa immagine. Secondo lui Barack Obama in realtà non vuole andare in Siria e si comporta come quei gradassi che dicono: tenetemi, se no lo picchio, no? Sperando, insomma, dice Edward Luttwak, che il congresso gli dica di no all'intervento, perché questa è la volontà di Barack Obama vera, secondo ovviamente il politologo americano, cioè non imbarcarsi in questa situazione davvero difficilmente districabile. Beh, oggi la Stampa ripropone un'intervista del Figaro, un quotidiano francese. Intervista di Georges Malbruno a chi? A lui, a Assad, uno dei protagonisti, il presidente della Siria, Bashar al-Assad. L'intervista riproposta a pagina 9: se ci attaccano esploderà tutto il Medio Oriente, dice Assad, che risponde alle prime domande sull'uso delle armi chimiche il 21 agosto alla periferia di Damasco. Dice Assad: chiunque lanci accuse deve darne le prove. Noi abbiamo sfidato gli Stati Uniti e la Francia a mostrare una sola prova. I signori Obama e Hollande non ne sono stati capaci anche davanti ai loro popoli. E poi parliamo della logica di questa accusa. Che interesse avremmo attaccare con armi chimiche quando la nostra situazione sul terreno è molto migliore dell'anno scorso? Non dico affatto se l'esercito siriano possieda o no queste armi. Supponiamo che il nostro esercito voglia utilizzare armi di distruzione di massa. È possibile che lo faccia in una zona dove è schierato lui stesso e dove dei soldati sono stati feriti da queste armi, come hanno constatato gli ispettori dell'ONU? Dov'è la logica in tutto questo? Ma chiede Le Figaro, gli USA affermano di aver intercettato una conversazione telefonica di un alto responsabile siriano che riconosce l'uso di armi chimiche. Se gli americani, è la risposta di Assad, o i francesi o i britannici disponessero di una sola prova, l'avrebbero mostrata fin dal primo giorno. Non abbiamo mai detto di possedere armi chimiche. Lei insinua delle cose con queste domande, cose che io non ho detto e noi non abbiamo né confermato né negato, ma normalmente nei paesi che possiedono queste armi la decisione è presa dal centro. Su Barack Obama risponde a questa domanda Assad: Barack Obama ha rimandato gli attacchi contro la Siria, come interpreta questa decisione? Risponde il presidente siriano: qualcuno ha visto in lui il capo forte di una grande potenza perché ha minacciato di scatenare la guerra contro la Siria. Noi pensiamo che l'uomo forte sia chi impedisce una guerra e non quello che la scatena. Se Obama fosse forte avrebbe detto: non disponiamo di prove sull'uso di armi chimiche da parte dello Stato siriano. E ancora chiede il giornalista del Figaro: Israele sarà colpito da una risposta siriana? Non spererà davvero che io riveli quale sarà la nostra eventuale risposta, risponde Assad. Il Medio Oriente è un barile di polvere, il fuoco si avvicina, non bisogna parlare della risposta siriana, ma di ciò che potrebbe succedere dopo il primo colpo. Il caos e l'estremismo si diffonderanno, un rischio di guerra regionale esiste. Insomma, così il presidente siriano Bashar al-Assad, sempre più accerchiato e sempre più minacciato da possibili raid americani, anche se davvero non si capisce l'America cosa farà. Sempre secondo Lutwak, le posizioni del Congresso americano, al quale Obama chiederà un sì o un no all'intervento, in questo momento sono 50-50, cioè 50%. Davvero non si capirà, non si capisce come possano essere gli sviluppi. Tra l'altro è interessante che cosa il commento che Alberto Negri fa sulla situazione siriana, davvero una situazione difficile. Sul Sole 24 Ore, a pagina 13, il miraggio di una soluzione diplomatica è l'articolo di Alberto Negri, che scrive: nel caso della Siria tutto è cominciato nel marzo 2011 con una rivolta popolare contro Assad e qui si consumò la prima illusione che Damasco fosse un altro capitolo del risveglio arabo. Insieme ci fu un drammatico errore di valutazione degli alleati turchi e arabi dell'America. Assad potesse dileguarsi come Ben Ali o Mubarak. Una rispettabile protesta di popolo repressa nel sangue si è però poi trasformata in una lotta settaria tra la maggioranza sunnita contro gli alawiti al potere e altre minoranze come drusi e cristiani. Lo scontro è diventato dunque un conflitto regionale tra sunniti e sciiti, tra i paesi arabi del Golfo e l'Iran, che sostiene Assad. Una guerra per procura che rappresenta per i sunniti una sorta di rivincita sull'Iraq, dove con la caduta di Saddam sono finiti sotto un regime sciita. Si sono aggiunti nel tempo altri conflitti, come quello recente tra i curdi siriani e gli islamici di Al-Qaeda, e all'interno dello schieramento sunnita tra nazionalisti e jihadisti stranieri accorsi in massa nel mondo arabo musulmano, dall'Asia centrale, perfino dall'Europa. Insomma, in questa galassia l'Occidente non sa chi scegliere e rischia di favorire gruppi radicali, ostili e incontrollabili. Questa è la situazione difficile. Tra l'altro c'è una foto che in questi giorni sta imbarazzando, viene pubblicata ora su tutti i quotidiani mondiali, una foto che ritrae l'attuale segretario di Stato americano Kerry con la moglie e i coniugi Assad a cena a Damasco in conversazioni affabili. Era il febbraio del 2009. Il quotidiano nazionale la mette addirittura in prima pagina: Kerry a cena con Assad, imbarazzo per l'America. In realtà queste cose succedono, insomma, 4 anni fa, questa cena, febbraio 2009, allora certamente i rapporti tra Siria e America erano ben diversi. Comunque questa è la situazione siriana, si attendono ovviamente sviluppi. Anche la Francia dice: abbiamo le prove dell'uso delle armi chimiche. È singolare, significativo che Assad scelga proprio un quotidiano francese, Le Figaro, per rispondere alle accuse di aver utilizzato le armi chimiche. da parte di alcuni paesi occidentali, soprattutto America e Francia in testa. Come detto, noi avremo ospite Gianni Vattimo, europarlamentare, tra gli altri alle 8:15. Vattimo, che oggi si conquista due pagine, faccio questa citazione prima di andare alla pubblicità del metodo, due pagine sui giornali, su Il Giornale, Simona Lorenzetti, Vattimo fa il cattivo maestro, Caselli esagera sui Notav, Caselli è il procuratore capo di Torino, che anche procura di Torino ha incriminato alcuni radicali Notav per gli scontri, l'eurodeputato dell'Italia dei Valori si unisce al coro degli intellettuali di sinistra contro la procura di Torino e sta dalla parte dei violenti, scrive Il Giornale. Tra l'altro un Vattimo che racconta anche La Stampa, ieri è stato proprio convocato in procura dai PM, in Valsusa non c'è terrorismo, questa è la posizione dell'europarlamentare, ieri interrogato dai PM Andrea Padalino e Antonio Rinaudo per oltre un'ora, perché a Ferragosto aveva fatto visita a un attivista Notav di area anarchica e aveva portato con sé, facendoli passare per collaboratori parlamentari, due responsabili del movimento Notav, facendoli entrare in carcere. E vabbè, quest'opera davvero crea ogni giorno problemi non da poco. Ieri è stato firmato questo patto, già definito patto di Genova, il documento di Genova tra imprese e sindacati, CGIL, CISL e UIL in maniera unitaria, per chiedere alcune cose al governo Letta, come racconta Nicoletta Picchio a pagina 3 del Sole 24 Ore. Dopo un colloquio riservato in una sala di un hotel per mettere a punto gli ultimi dettagli, ecco l'annuncio. Presidente di Confindustria Squinzi, tre segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Camusso, Bonanni e Angeletti, salgono sul palco della festa del PD a Genova, tengono in mano il testo con le priorità condivise per rilanciare il paese. Sono 3,5 pagine. Il titolo è Una legge di stabilità per l'occupazione e la crescita. 3 paragrafi, politiche fiscali, politiche industriali, revisione degli assetti istituzionali, efficienza sulla spesa pubblica. Che cosa chiedono? Anche il Corriere della Sera, pagina 6, lo chiama già il patto di Genova tra imprese e sindacati. Cosa chiedono? Intanto, per quel che riguarda gli industriali, la riduzione del carico fiscale sul lavoro e le imprese per aumentare il reddito disponibile delle persone, riequilibrare la tassazione sui fattori produttivi, mentre per quel che riguarda per affrontare in modo organico le diverse situazioni di crisi, l'istituzione di una cabina di regia, e ancora per il miglioramento della competitività delle imprese nel contesto europeo si chiede la riduzione del costo dell'energia, e questo ieri già il Corriere raccontava che ci sarebbe un piano da mettere a punto a metà settembre dal governo per ridurre di 3 miliardi il costo dell'energia a carico di imprese e anche famiglie, e poi per favorire la maggiore capitalizzazione delle aziende e il rilancio degli investimenti, gli industriali chiedono anche il rafforzamento dei meccanismi di detassazione degli utili reinvestiti e dei meccanismi di sostegno all'accesso al credito. Da parte dei sindacati invece soprattutto la richiesta di puntare sul lavoro, e quindi più detrazioni per i lavoratori dipendenti, più detrazioni per i pensionati. Insomma, questi sono gli elementi, tra l'altro tra le altre cose anche che il governo incida fortemente sulla spesa pubblica. Mi è venuto un pochino da sorridere quando ho letto anche, per esempio, incidere sulla spesa pubblica, per esempio eliminando le province. Ah! Le province, ho avuto un piccolo sussulto. Siamo alla 18ª settimana decisiva per l'abolizione delle province di questa legislatura. Nelle precedenti legislature siamo alla settimana numero N, non lo so, all'anno numero N. Comunque il vice ministro all'economia Stefano Fassina, che sapete è un po' l'anima critica su alcuni provvedimenti come quelle dell'IMU all'interno del governo Letta, viene intervistato dall'Unità, parte proprio da questo documento definito un pungolo affinché l'azione dell'esecutivo si prepari per una legge di stabilità più attenta alle forze produttive e meno a quelle della rendita. Tra l'altro Fassina, che appunto è stato critico anche sulla questione dell'IMU, dicendo insomma è stato un po' un compromesso politico che abbiamo dovuto fare, dice anche le frecciate intervistato da Luigina Venturelli. Anche le frecciate delle imprese, dei sindacati sulla questione dell'IMU sono frecciate corrette e meritate, frecciate inevitabili da parte di chi assume a obiettivo della propria azione le vere priorità del paese, senza sventolare bandierine propagandiste e classiste. Nel decreto siamo dovuti arrivare a un compromesso politico complessivamente utile, ma che pure contiene parti sbagliate nel sottrarre risorse a investimenti e occupazioni per cancellare l'IMU anche alle case di maggior valore. Insomma, Fassina ribadisce che la questione dell'IMU è stata un po' un errore, ecco, o comunque un compromesso che hanno dovuto fare. E a proposito, riapre comunque la questione dell'IMU dicendo dalla revisione delle politiche fiscali, da qui si deve cominciare, da qui parte il documento delle parti sociali, dobbiamo ridurre il carico sul lavoro e le imprese, si potrebbe reintrodurre, dice Fassina, la deducibilità dell'IMU per le imprese finanziandola con il ripristino dell'IMU su quel 5% di abitazioni di maggior valore. Ma come? Il dibattito intorno all'IMU, chiede l'Unità, si è appena concluso e già si annunciano polemiche roventi per le coperture finanziarie al decreto che potrebbero arrivare. Per questo spero, dice Fassina, che l'impulso dato dalle parti sociali con questo documento unitario consenta di rimettere in ordine le priorità. Sì, perché questo è un punto fondamentale sull'IMU. Le coperture, ora cominciano a venire fuori alcuni dettagli che per esempio Repubblica mette a pagina 2 e 3, che il Quotidiano Nazionale mette a pagina 3, cioè per togliere l'IMU bisogna ovviamente trovare le coperture. E dove le hanno trovate? Questo racconta per esempio Repubblica: meno soldi per il lavoro. Per far risparmiare ai proprietari di prima casa i soldi dell'IMU, racconta Lucio Cillis su Repubblica, pagina 2, pur di far quadrare il decreto IMU, il governo non esita a tagliare risorse a chi? All'occupazione, alla lotta per l'evasione fiscale, alla manutenzione ferroviaria, alle energie rinnovabili, alle forze dell'ordine, che già spesso si lamentano, non abbiamo i soldi per mettere la benzina nelle macchine, dalle polizze vita alle accise, così la cancellazione di un'imposta ha generato nuovi salassi. Anche Valentina Conte, a pagina 3 di Repubblica: sono tagli affatto indolori, tasse implicite o minacciate, ambizioni ridimensionate. Il decreto IMU in arrivo alla Camera non smette di stupire. Ci sono anche i dati: 300 milioni di tagli sui consumi intermedi e interventi fissi e investimenti fissi, 676 milioni di tagli alle autorizzazioni di spese, 300 vengono tolti alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale, tutti entro dicembre, che si aggiungono ai 35 milioni sottratti all'ANAS, ai 55 milioni di minori fondi per assumere poliziotti, vigili, carabinieri, finanzieri, forestali, polizia penitenziaria, segati pure 30 milioni al trattato di amicizia italo-libico. Beh, insomma, alcune cose non sono neanche male. Comunque, insomma, questi sono i soldi, la copertura IMU fa altre vittime, taglio ai fondi per lavoro e sicurezza, è anche il titolo del Quotidiano Nazionale. Anche il Messaggero a pagina 2, il titolo di prima pagina è tagli di spesa per 10 miliardi, a pagina 2 il Messaggero riepiloga: caccia 10 miliardi, costi standard e meno detrazioni per ridurre la spesa. Insomma, per trovare questi soldi per l'IMU cancellata bisognerà fare qualcosa. Chi tuona contro questo è l'ex premier Mario Monti, che proprio questa cosa dell'IMU cancellata dalle prime case Non la riesce a digerire. Mario Monti viene intervistato da Alessandro Barbera sulla Stampa: con l'intervento sull'IMU ora il fisco è meno equo. Monti in realtà la prende alla larga, cioè dalla questione della decadenza di Berlusconi, che definisce un passaggio difficile, ma non darei per scontato che una decisione sfavorevole a Berlusconi conseguirebbe il ritiro del PDL dalla maggioranza di governo. La prende alla larga per poi arrivare alla critica centrale dell'intervista, cioè non ha gradito affatto Mario Monti la decisione sull'IMU. Non ho bisogno di pronunciarmi io, in realtà, dice. Sul piano politico anche Renzi ha detto: Berlusconi ha fatto una sola promessa elettorale e noi gliel'abbiamo realizzata. Sul piano economico la misura adottata rende il sistema fiscale meno equo e meno progressivo. E poi sentite cosa aggiunge Monti con questo, me lo immagino col suo modo pacato, ma facendo notare questa cosa. Del resto, tra i paesi che tassano le proprietà immobiliari, ve ne sono soltanto 4 che esentano la prima casa. E sapete quali sono, dice Monti? Il Congo, la Mongolia, il Niger e lo Yemen. Insomma, che l'Italia raggiungesse questo drappello di punta nella sacralità della casa era forse meno urgente di quanto non sia per i prodotti italiani acquisire una migliore competitività o per i giovani italiani avere qualche possibilità di lavoro in più. Beh, messa così fa un certo effetto. Questo Mario Monti, intervistato dalla Stampa a pagina 7. Siamo alla puntata numero 5732 della telenovela Berlusconi, la vicenda della decadenza, che molti appena ne parlano dicono basta, basta. Insomma, io leggo i giornali, se i giornali dedicano paginate e paginate su un tema politicamente così importante, è chiaro che questo è. Allora, gli articoli più interessanti del giorno di questa puntata 5000 e rotti sono: Il Giornale, che presenta nuove carte che avrebbero scagionato Berlusconi. Il processo è finito, ma la condanna è definitiva, ma ecco le carte svizzere ignorate che scagionano il leader del PDL. Anna Maria Greco, un documento del 2010 della magistratura svizzera dice che Agrama, che è il personaggio centrale di questa frode fiscale, era l'intermediario ufficiale esclusivo tra la Paramount e molte TV europee. Insomma, a pagina 4 ci sono queste carte che avrebbero scagionato Berlusconi. Berlusconi, che viene definito nel barometro tra falco e colomba, ogni tanto si alterna in questi giorni, almeno nel resoconto dei giornali, più colomba, tanto che, racconta il Corriere della Sera, sarebbe tutto pronto per la firma della richiesta di clemenza, di grazia a Giorgio Napolitano, al Presidente della Repubblica. Tommaso Labate, a pagina 9 del Corriere della Sera, racconta che i figli, tutti i figli di Berlusconi, quelli della prima moglie ma anche avuti dalla seconda moglie, sono pronti a firmare l'iniziativa. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi Berlusconi, tutti figli, da quello che emerge dalle confidenze dello stesso Berlusconi, non sarebbero mai stati così squadra come dal giorno della condanna del padre. Quindi uno degli schemi su cui si starebbe ragionando rimanda a questa possibile iniziativa. D'altronde, avrebbe detto Berlusconi, racconta Tommaso Labate, io ero contrario alla richiesta di grazia, continuo a essere perplesso, so che sono innocente, un innocente non chiede la clemenza, ma nella mia famiglia sono rimasto isolato. Tutti i miei figli sono d'accordo, dal primo all'ultimo. Di conseguenza, insomma, puntini puntini, accetterà questa cosa. E udite, udite, secondo il Corriere, firmerà la richiesta di clemenza anche Veronica Lario. Shh, Veronica Lario. Boh. E colei che, come ci ha detto Vincino, ha fatto partire un po' di guai qualche anno fa. Veronica Lario, secondo il Corriere, sarebbe pronta a firmare la domanda di grazia. Sarebbe pronta a firmarla anche l'avvocato Paniz, ex onorevole, perché dice il Libero che basta un avvocato, e Paniz viene subito intervistato da Cristiana Lodi e dice firmo io la richiesta di grazia per Silvio. Poi ci sono anche altri articoli, si litiga già sulla data, sull'orario della prima udienza della giunta che dovrà decidere il 9 settembre. C'è da dire che Repubblica, tra l'altro, sul caso Berlusconi fa sapere, non c'entra proprio sul caso della decadenza, con Ettore Livini a pagina 9, che Berlusconi si è dimenticato di pagare la TARSU, la tassa dei rifiuti. Per che cosa? Per Villa Gernetto. Villa Gernetto è all'ESMO, il titolo tra l'altro è Villa Gernetto, il flop milionario di Silvio, dove ha fatto l'università del pensiero liberale, dove ha detto verranno qui Bush, Blair, Aznar, invece racconta Repubblica, finora non si è visto nessuno, e la struttura, dopo aver speso 75 milioni per trasformarla in una sorta di Versailles Brianzola, è stata definita ormai un flop, tanto che è stata una perizia commissionata. È stato stimato in 51 milioni il valore della reggia, dopo aver speso solo 75 milioni di ristrutturazione. E poi c'è la beffa. Equitalia ha colto il cavaliere con le mani nel sacco. Villa Gernetto si è scordata. Villa Gernetto, la casa si è scordata. La casa si è scordata di pagare la Tarsu nel 2010 e nel 2011. Gli implacabili gabellieri di Attilio Befera gli hanno recapitato una cartella esattoriale con su scritto nero su bianco una spesa da 83.000 euro. Ci deve 83.000 euro. Attenzione Berlusconi, perché Befera è più mastino di Violante, sicuramente. Quindi attenzione, perché 83.000 euro, questa è la spesa della Tarsu che Berlusconi deve per Villa Gernetto allo Stato italiano. Renzi invece, appoggio su Renzi da parte di Franceschini, voterò Renzi, così titola il Secolo XIX, Renzi incassa l'appoggio di Franceschini, così titola La Stampa, adesso Franceschini sta con Renzi ma anche con Letta. Tra l'altro il Fatto Quotidiano, che titola così a pagina 6, fa sapere che Franceschini era colui che Renzi aveva definito il vice disastro, questo in una vecchia intervista quando Franceschini era il vice di Veltroni. Beh, su questo appoggio a Matteo Renzi da parte di Franceschini ma anche da parte di altri del PD oggi è illuminante Massimo Gramellini, il suo buongiorno nella prima pagina della Stampa, il titolo è sul carro del rottamatore, ammesso che esista, scrive Gramellini, la diversità antropologica della sinistra è un virus che non rischia di intaccare i suoi dirigenti. Un anno fa non ne trovavi uno disposto a prendere un caffè con Renzi, il sindaco di Firenze era un moccioso, un arrogante, il nipotino prediletto di zio Berlusconi, ora è diventato il fratello bianco di Obama, il cugino toscano di Blair, la reincarnazione di Bob Kennedy, e non c'è signore delle tessere democratico sperduto assessore appenninico che non ostenti il desiderio incomprimibile di applaudirlo, abbracciarlo, incoronarlo segretario del PD di tutte le galassie. Renzi, sia detta a suo merito, non è cambiato, continua a dire le cose che diceva prima, e cioè che se prende il potere li farà fuori tutti, altrimenti loro, dopo Prodi e Veltroni, faranno fuori anche lui. I notabili lo sanno, ma non resistono ugualmente alla tentazione di saltare sul carro del vincitore. E pazienza se si tratta dello stesso carro a cui fino a ieri cercavano di segare le ruote. La loro speranza, una volta saliti a bordo, è riuscire a mimetizzarsi nella paglia, acchiappare qualche schizzo di gloria, soprattutto saltar fuori al momento opportuno armati di pugnale. Gli illusi confidano nel fatto che prima di essere obamiano Renzi è un democristiano. Noi invece confidiamo nella proverbiale cattiveria di Renzi, sicuri che non ci deluderà. Così Massimo Gramellini fotografa la situazione attuale all'interno del Partito Democratico. C'è da raccontare quello che sta succedendo, la disfida Verona-Roma. Dopo la partita e il vergognoso assalto che c'è stato con Sassi al pullman del Verona, poteva davvero finire molto peggio. Tutto si è spostato su un conflitto tra città, perché il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha detto dopo l'attacco ultra della Roma al bus del Verona: qui non sarebbe successo, qui a Verona, e soprattutto ha detto: a noi ci avrebbero messo sotto accusa. Subito ha risposto Ignazio Marino: non metta sotto accusa un'intera città per il gesto sconsiderato di alcune persone. Ma insomma è subito partito. Guardate la Padania, che ce l'ho qua. Sapete come titola la Padania? Forza Lazio! Per dire i tifosi della Roma saltano con sassi e spranghe il pullman della squadra del Verona. E adesso allora così titola la Padania: Forza Lazio. Non si sa poi come i tifosi della Lazio accoglieranno invece quelli del Verona. Chissà, forse sono gemellati, forse no, ma intanto è venuto il momento del premio più ambito nella rassegna stampa di Radio 24, la scelta, mio insindacabile giudizio, dell'articolo più inutile del giorno, la carta costa. E oggi siamo ancora sul Corriere della Sera, che tra l'altro guida la classifica. Paola De Carolis, un articolo di un'intera pagina, 50 and 50, la divisione dei compiti, se non lo sapete, cari mogli e mariti, è il segreto della felicità. Pensate che l'amministratore delegato di Facebook, credo, sì, chi è questa qui, no? Sheryl Sandberg, amministratrice delegata di Facebook, ha scritto un libro, un libro dal titolo Arrivare a 50 e 50, come i genitori che lavorano possono avere tutto. In questo libro teorizza quello che mia moglie mette in pratica da sempre, cioè per essere felici bisogna fare le cose a metà a casa. Basta questa cosa che i mariti lavorano e poi non apparecchiano la tavola, non cambiano il pannolino, i bambini. 50 e 50, il Corriere ci dedica una pagina, la divisione dei compiti è il segreto della felicità. Ci è arrivata l'amministratrice di Facebook, che tra l'altro sapete quanto guadagna? 26 milioni di dollari all'anno. Ma che ti frega di dividere a 50 e 50 le cose con tuo marito? Ma assumi 50 governanti, 8 tate e vai a divertirti in palestra, dico io, o no, o sbaglio. Comunque, cari amici del Corriere, la carta costa e state attenti perché cominciate a esagerare con le vittorie di questa classifica.